Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Pietro Lacorte in regia. È il giorno della verità per il nostro basket. O questa sera ore 20 si vince di almeno 4 punti a Pau contro la Francia, oppure non si fanno gli europei per la prima volta negli ultimi 48 anni. Mi sembra il caso di partire da qui. Palla spicchi. Coach Dan Peterson, buon pomeriggio. Amici sportivi, buongiorno a tutti. Senti Coach, il giorno della verità, proviamo a farci coraggio gridando nel bosco per non avere paura, però andiamo in Francia senza grandissime sensazioni. Guarda, io che non sono italiano nato, ma vivo qui dal 73, che sono a 36 anni, e se c'è una cosa che devo notare delle squadre nazionali italiane, e quando c'è il pronostico contro o qualcosa contro, e sembra non ci sia possibilità di vincere o di passare il turno, allora vengono fuori miracoli. Io mi ricordo c'è proprio nel 82 nel mondiale l'Italia sembrava fuori e finisce a vincere il mondiale. Mi ricordo nel 06 dopo tutto il dramma delle partite di non so, Mojopoli, come le vogliamo chiamare, sì, eccetera, sì. Il calcio italiano era in difficoltà, vincono ancora il mondiale. Anche nel basket vedo le stesse cose. Quindi la squadra scende in campo con assolutamente niente da perdere, cioè più pressione casomai psicologicamente sulla Francia, ovviamente vantaggio campo, ma devono assolutamente vincere, e far questo in casa è difficile. L'Italia deve fare questo, deve stare in partita vicino, punto a punto per tre quarti, poi il quarto, se è così, pari punti, meno uno più uno, tutta la pressione sulla Francia. Quindi questo può essere il piano partita, però sei molto gentile coach, ma tecnicamente la partita con la Finlandia ci ha lasciato un po' così, come numeri Bargnani e Berinelli sono andati bene, ma con iniziative isolate, non riusciamo a giocare con loro e per loro, questo è una delle difficoltà di questa squadra. Un'altra difficoltà è una fragilità difensiva che è sembrata evidente, no coach? Anche a te. Voi avete toccato i due problemi principali proprio con la mano, nel senso che la difesa corale, onestamente detto, non l'abbiamo visto ancora, e poi l'attacco corale che lavora per loro, cioè inutile chiedere a Bargnani di produrre, di fabbricare, di creare un tiro uno contro uno contro due, uno contro tre, uno contro cinque da solo, non lo farà, non è il suo tipo di gioco. Però guarda, esterno, la partita con la Finlandia è stata veramente un dramma, che loro potevano, i finlandesi, addirittura vincere con due tiri da tre verso la scadere di tempo. Ok, perfetto. Ma qualche volta quando tu passi un incubo così, un dramma così, dopo dice: ehi, abbiamo sopravvissuto un incubo, cioè adesso può solamente migliorare. Ma chiaro, tutti i miei sogni qui per loro sono belli da dire, ma la verità è quello che avete detto voi: in difesa devono giocare e da squadra, in attacco devono giocare e anche da squadra. Se non fanno quelle due cose lì, l'opportunità di fare il colpo svanisce. Cosa io ho visto, però, anche tanti giocatori, secondo te avevano la faccia giusta i giocatori italiani? Ho visto tanti giocatori che non riuscivano, al di là delle difficoltà difensive di squadra, a tenere il loro avversario uno contro uno dopo i cambi sistematici. È sembrato che mancasse anche un po' il fuoco, o no? O è solo un'impressione dovuta alle difficoltà? Carlo, non sei l'unica persona a dirmi questo. Poi probabilmente, non ho una spiegazione giusta, ok? Mi sto arrampicando ai vetri qui. Però forse la paura, la situazione, la trasferta, il pubblico, l'arena, l'avversario, non soltanto, magari anche c'era un po' di paura o qualche altra cosa stampata sulla faccia. Vediamo le facce che avranno questa sera contro la Francia, che queste sono le facce che contro, hanno già passato quella partita lì, con il ritorno con la Finlandia in casa, e stasera che contro, che devono tirare fuori, come dici in America, lo chiamano proprio così, game face, faccia della partita, c'è proprio quella faccia che dice: oh oh, questi sono seri, c'è la gente che va in campo veramente non solamente per vincere, ma sportivamente per uccidere, e Italia deve avere quella faccia. Senti Coach, Berinelli l'altra sera mi ha ricordato, vedendolo giocare, un tuo giocatore che è stato tante gioie e qualche arrabbiatura forte, Roberto Premier. Certi suoi tiri mi hanno ricordato Premier, o no? Yeah, well, e la differenza è che il Premier più forte di Bellinelli fisicamente, forse sì, 2 centimetri più alto, più pesante, per Premier 100 kg, 1,97 m, 1,98 m, più sostanza di Bellinelli. Bellinelli è superiore come atleta, come tiratore, come palleggiatore, come passatore, molto più completo come giocatore, ma la mentalità dell'attaccante è uguale in tutti e due. Tu conosci Tony Parker molto bene, lo racconti ogni settimana nell'NBA. È un giocatore ovviamente immarcabile, però ha pochissimi chilometri nelle gambe. Un super, ma se oggi non sei al 100% fisico, è difficile anche incidere su partite di questo tipo. Ma guarda, Tony Parker, che non ha giocato qui in Italia contro l'Italia a Cagliari, ha giocato pochi minuti nella seconda gara contro la Francia. Lui è un UFO per loro, che sta atterrando adesso, c'è, cioè, oggetto strano, hai capito? Cioè, e poi quando rientra un super campione così, tutti gli allenatori sanno di che cosa parlo, gli altri dicono: oh, meno male è entrato Parker, ci pensa lui, noi dobbiamo far meno adesso. Cioè, io quando ho avuto un grande giocatore rientrare da un infortunio, ho sempre, quasi sempre dovuto, non dico scazziare la squadra, ma dire: sì, oh ragazzi, cos'è questa storia qua? Adesso Meneghin è tornato, non tanto, lasciamo tutto a Meneghin adesso, è appena ritornato l'infortunio, che deve proprio anche lui orientarsi nel campo, cioè, lasciamo tutto sulle sue spalle, facciamo vacanze, cioè, e tutti si arrabbiavano con me. Però questa è la mentalità che coach Recalcati, lo staff tecnico, la squadra, il capitano Soragna devono veramente affrontare, e anche la Francia, che loro non devono pensare che sarà Parker a vincere la partita. Parker deve proprio inserirsi nel proprio gioco, e vediamo se i francesi dicono: oh bene, ci pensa Tony a tutto, abbiamo il nostro asso, non possiamo perdere. Queste sono piccole cose che finiscono ad alterare la mentalità di tutte le due squadre. Sì, ma mi sembra che questo sia un po' un problema anche dell'Italia con Bargnani e Bellinelli. È un problema ancora non risolto con Bargnani e Bellinelli, perché ci sono questi due, nel momento in cui la palla brucia, nel momento in cui hai difficoltà, beh, diamola loro, ci pensano loro. Assolutamente. Bellinelli e Bargnani sono due UFO per la squadra italiana, ok? Cioè, assolutamente, vengono inserite, e questa non è una questione facile, ok? Cioè, ognuno che è allenato in Italia, una squadra juniores, che ha preso un giocatore della prima squadra, ancora giovane juniores, e cercato di mettere lui in squadra per fare, non so, le finali nazionali di 16 squadre, tutti gli allenatori dicono: ah, problemi di inserimento del giocatore che gioca in Serie A. Riccardo Pites, che ha avuto Milano, Marco Buonamico, che ha avuto Bologna, quando giocavano in juniores, dopo aver giocato con la prima squadra, era sempre una difficoltà per loro stessi, e anche si può capire, ma anche per i compagni, dicono: oh, la stella è arrivata, cosa facciamo noi adesso? Diamo la palla a lui, ci penso. Cioè, è una situazione estremamente complicata. Quale sarebbe il tuo piano partita questa sera? Cosa? Nelle ultime, Recalcati ha cambiato la strategia dei playmaker, come hai visto. Si partiva da Poeta, poi niente più Poeta, servono cose diverse anche difensivamente, allora gioca a lungo Vitali. La tua strategia per la partita di questa sera quale sarebbe? Io prima parlo di quello che abbiamo detto prima. Ragazzi, voglio vedere le facce giuste, prima cosa. Due, voglio vedere una difesa corale. Non vi sento parlare, tu parli con lui, aiuto qui, aiuta là, diamo una mano, eccomi qua, non ti preoccupare, cambio. Voglio sentire le voci. Terza cosa, in attacco, riconoscete le difese, giocate insieme, non facciamo i pigri e scarichiamo tutto sulle spalle dei nostri due NBA, ok? Giochiamo insieme per loro, e perché se giochiamo insieme qualcuno sarà libero. E poi quello che tu hai detto adesso, la decisione del playmaker, non playmaker, o Poeta o Vitale, o come si fa, o anche Giacchetti, non puntare Giacchetti, perché Giacchetti è uno di quelli che ha la faccia giusta per queste partite. Ragazzo, giocatore da playground, forse lui dice: ehi, quale lì è Parker? Fatemi vedere Parker, ci penso io. Cioè, lui è questo tipo di ragazzo, mi piace molto lui. Sì, certo, coach, speriamo tutti che vada bene, che stasera si vinca di 4, poi che si batta la Finlandia, che si vada avanti a giocare con la Bosnia, eccetera, eccetera. Speriamo di parlare di Italia e di europei fino al 20 settembre. Però se non dovesse andare così, insomma, ci sarebbe tanto da ricostruire a partire dai rottami di questa nazionale. Carlo, ti dico come affrontavo io queste partite drammatiche. Dicevo alla squadra: voglio vincere questa partita anche per un solo punto, che vuol dire essere eliminato. Prima vinciamo per un punto. Sì, sì. Poi sì. Vediamo se siamo eliminati, ok? Prima cerchiamo di vincere. Non parliamo di matematica, parliamo della doppia W, la win, la vittoria, i due punti. Parliamo di questo prima. Voglio vincere anche per un punto, poi dopo ne parliamo di tre o quattro o quello che è, eccetera. Non parliamo di questo adesso, quindi vediamo come va a finire. Mi viene in mente la Rissaronicco. Ma tu hai detto, ma tu sai la storia che hai detto loro prima della più 34 Milano: voglio vincere questa partita anche per un solo punto. L'abbiamo vinta per 34, quindi prima vince per uno, poi dopo andiamo a fare la matematica. A proposito, per chiudere, visto che parlavamo anche di ricordi milanesi, mercato di Milano importante, molto costoso, un po' confuso, adesso dipende come mettere la squadra insieme. Io penso che Piero Bucchi, avendo avuto un anno in società, un anno con la squadra, tutti i meccanismi dell'Olimpia Milano li conosce bene, sa cosa serve la squadra, chi non serve, chi non serve. Se Mancinelli per me è un ottimo acquisto, sì. Versatile alla grande, alla piccola, qualche volta guardia, entra, rimbalzi, stoppate, schiacciate, tiri da tre qualche volta. E poi i lituani sono, c'è proprio un giocatore di una tecnica strafine, quindi vediamo cosa succede. Coach, incrociamo le dita tutti insieme. Anche io sarò davanti al televisore. Okay. Grazie Coach, alla ciao, prossima. Ragazzi, ciao a tutti, ciao. Grazie Coach Peterson, adesso ci fermiamo qui, sentiamo il traffico, poi avremo, insomma, calcio, non ce lo facciamo mancare nemmeno oggi, perché, come ben sapete, domani parte la Premier League, comincia l'avventura di Carletto Ancelotti, cui va tutto il nostro tifo, e sarà lui ad aprire il campionato nell'anticipo contro l'Hull City. Voglio capire anche come sono messe le cose in Argentina, perché nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, campionato argentino bloccato, Maradona disperato, eccetera eccetera. Ci sono, ma l'avrete letto in questi giorni sui giornali, novità importanti. Sono curioso di capire come si svilupperà la vicenda del calcio argentino, e poi naturalmente da domani saranno mondiali di atletica e avremo una amplissima pagina sulla parata di stelle che da domani vedremo sulla pista blu di Berlino. Come ho annunciato e promesso, anche oggi non ci lasciamo mancare una ricca pagina calcistica, una pagina che ci porta all'estero, però, perché in Inghilterra siamo al countdown. Da domani sarà Premier League e apre proprio il Chelsea di Carletto Ancelotti nell'anticipo contro l'Hull City. Io saluto Lorenzo Amuso, ciao Lorenzo. Buon pomeriggio. Dall'Inghilterra naturalmente. Prima del campionato della Premier League, come hanno preso da quelle parti il 2-2 in Olanda strappato da Fabio Capello, con una squadra che comincia ad assomigliare al suo commissario tecnico, almeno dal punto di vista della voglia, della grinta, della cattiveria? Sì, esatto. I commenti sono stati benevoli, direi, complessivamente, nel senso che sono state evidenziate e censurate le amnesie del primo tempo, i macroscopici errori di Ferdinand piuttosto che quello di Johnson o di Barry, che hanno poi portato al duplice vantaggio dell'Olanda, ma è stato anche sottolineato il ritorno, come dicevi giustamente tu, il ritorno dell'Inghilterra, che ha dimostrato una volta di più di possedere quel carattere, quella fisionomia agonistica, direi, che gli è stata trasmessa da Capello. Ha destato grande curiosità piuttosto il discorso che Capello, o meglio la sveglia che Capello avrebbe suonato durante l'intervallo all'Amsterdam Arena ai suoi giocatori, perché appunto dopo un primo tempo abulico, svogliato e pieno di amnesia difensive, nella ripresa sono scesi in campo 11 giocatori completamente differenti. Allora i giornali si chiedevano appunto che parole avesse usato Capello per svegliare l'orgoglio dei suoi giocatori. È evidente che probabilmente c'è stato più di una parolina per Ferdinand e compagni. Sì, evidentemente Capello l'inglese calcistico lo conosce già molto bene. Senti, invece Lorenzo, parlando di Premier League al via domani, secondo te quali sono i grandi temi che propone questa stagione? Ma per quanto riguarda, come dire, un osservatore italiano, sicuramente la cosa principale da seguire, da osservare, è l'approccio di Carlo Ancelotti a questo nuovo campionato. Tra parentesi, dopo la vittoria in Community Shield, il Chelsea, dal mio punto di vista un po' a sorpresa, dopo spiegherò perché a sorpresa, comunque il Chelsea, secondo gli allibratori inglesi, è diventato il grande favorito per il campionato, per la vittoria in Premier League, nel senso che viene quotato 21-10 a fronte della quota 5-2 che è riservata allo United. Ricordiamo che lo United arriva da 3 vittorie in campionato consecutive. Il Chelsea non vince appunto dalla stagione 2005-2006, dicevo dal mio punto di vista un po' a sorpresa, perché di fatto il Chelsea non ha fatto campionato, non ha fatto mercato, nel senso è arrivato soltanto il russo Tyrkov e poi gli altri effettivi sono gli stessi che 12 mesi fa erano stati messi a disposizione di Scolari. È vero sì però che il United ha perso il giocatore più forte, probabilmente più forte al mondo, come sostiene Ferguson, ovvero sia Cristiano Ronaldo, e l'ha rimpiazzato con 2 giocatori come Antonio Valencia e Michael Owen. Ferguson, non dimentichiamoci, ha perso anche Carlos Tevez, per cui sulla carta è vero che lo United si è indebolito, in realtà io non vedo come viceversa il Chelsea comunque si sia rafforzato. Sì, beh, però insomma le altre si sono indebolite appunto in un mercato in uscita, per la prima volta dopo tanti anni nessun nome grosso è arrivato in Inghilterra, questo può essere anche uno spunto di novità per la stagione che sta iniziando. Il Chelsea ha la forza di un blocco che comunque è rimasto immutato, stelle comprese. Sì, no, questo senza dubbio. In più c'è il valore aggiunto rappresentato da Carlo Ancelotti, certo. Carlo Ancelotti che ha avuto un approccio alla stagione inglese molto positivo, appunto con la vittoria ai rigori in Community Shield contro appunto il Manchester United, ha proposto alcune novità tecnico-tattica a partire dal rombo di centrocampo che non ha convinto fino in fondo, ma insomma si sa che quando si vince giocando non benissimo, forse anche un po' maluccio, ecco, sono da intendersi come buoni segni in previsione della stagione che va a cominciare. Senti, invece per quanto riguarda il Chelsea, a me mette, ti dico la verità, un po' di tristezza la vicenda di Shevchenko, che è tornato ovviamente dopo il prestito al Milan. E adesso insomma cercano di piazzarlo, l'unico acquirente plausibile è la Dinamo di Kiev, era stato anche raggiunto un accordo, ma Sheva si è impuntato, ho ancora un anno di contratto con il Chelsea, voglio restare a Londra, Dio solo sa cosa potrà accadere poi. Era un enorme giocatore, adesso è, insomma, non è ancora vecchissimo, ma è chiaramente ben avanti sul viale del tramonto, Sheva. Sì, sì, è un caso anche se vuoi un po' strano, nel senso che dopo una stagione, l'ultima a Milano, non mi riferisco a quella dell'anno scorso, ma quella prima della cessione, una stagione a Milano positiva, lui è venuto a Londra, esordito in Community segnando un gol importante, ma poi lentamente si è perso una sorta di processo di involuzione che lo ha portato inizialmente in panchina e poi via via sempre più ai margini. Adesso quasi sempre lasciato in tribuna, anche per quanto riguarda la finale di Community Shield, Ancelotti non lo ha convocato, è un separato in casa e non vedo come e quando possa trovare spazio in questo Chelsea. Non lo vuole il suo allenatore, non lo vogliono i dirigenti, anche a causa del faraonico ingaggio che continua a percepire, però lui appunto, come dicevi giustamente tu, si è impuntato, vuole chiudere la sua esperienza inglese, vuole andare in rescissione del contratto, ha rifiutato la Dinamo Kiev e io francamente non riesco a immaginare come possa trovare un'altra locazione. Perché ricorda per certi aspetti anche la vicenda di Michael Owen, ovviamente fatte le debite proporzioni, nel senso un giocatore, Michael Owen, di 29 anni, che però per quanto riguarda il calcio di altissimo livello, lui vabbè adesso quest'estate ha avuto il rilancio, è stato acquistato dal Manchester e forse è veramente la sua ultima chance, però anche in questo caso l'amichevole di Amsterdam è stata significativa, cioè un comprimario come Defoe ha messo a segno una doppietta e secondo la stampa britannica questo ha rappresentato il canto del cigno per Owen, perché difficilmente a questo punto Capello potrà trovargli anche quel posto da panchinaro che probabilmente invece Owen in cuor suo ancora sperava in vista del prossimo mondiale. Per chiudere, Lorenzo, si parla poco del West Ham di Zola, che precampionato ha fatto, quali sono le indicazioni che emergono dal West Ham? Allora, direi che l'elemento principale per quanto riguarda il West Ham è la crisi finanziaria in cui si dibatte. Non è una società senza budget che è stata costretta a cedere alcuni dei suoi pezzi migliori senza avere finora delle adeguate alternative. Manca, hanno a disposizione un buon centravanti, Carton Cohn, che tra parentesi ha giocato anche mercoledì in Olanda nel secondo tempo, dimostrando di essere in crescita e un giocatore sicuramente da seguire. Però gli manca qualcosa in attacco. Stanno seguendo Goody Onsen del Barcellona, si parlava di un interessamento a Tony, ma questo mi sembra più il più difficile, non fosse altro per l'ingaggio di Tony. Donna si trova tra le mani una squadra relativamente giovane, ambiziosa, che vuole nel giro di un paio d'anni arrivare a competere se non per il titolo, ma certamente per la qualificazione in Champions League, però con una rosa ridotta e con mezzi finanziari veramente risicati. Quindi un'impresa non facile per il nostro allenatore, peraltro reduce da una stagione decisamente positiva, certo, perché comunque ha chiuso al nono posto, una posizione più avanti rispetto alla chiusura dell'anno precedente. Grazie Lorenzo, sentiamo presto naturalmente con la Premier League che parte. Doveva partire anche proprio in questo weekend il campionato argentino. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato come invece il campionato argentino fosse stato bloccato, ma avrete letto anche sui giornali ci sono novità importanti, curiose, interessanti. Se hai un marito che ti picchia, che ti dà pochi spiccioli al mese e uno che ti ama con passione e che ti dà tutto quello che vuoi, con chi decidi di rimanere? Emiliano Guanella da Buenos Aires, buongiorno. Carlo, buongiorno, è quasi obbligata, decidi di rimanere con quello che ti copre d'oro e in più ti ama alla follia, prima del prossimo tradimento, forse verrebbe da dire, visto che stiamo parlando di personaggi certamente non lineari e non pulitissimi, cioè personaggi come Julio Grondona, padre, che ha detto queste parole, padrino e presidente, sì, da 30 anni della Federcalcio Argentina. Senti, allora in Argentina ci raccontavi di quel contratto lunghissimo, lunghissimo per i diritti del campionato argentino, qualcosa di pazzesco, inimmaginabile da noi. Allora è intervenuto Grondona, contratto stracciato, e adesso? E adesso arriva lo Stato salvatore, unico caso in Sud America, forse anche nel mondo, il governo nazionale, domani ci sarà l'annuncio con la presidentessa Cristina Kirchner nella sede della Federcalcio Argentina SESA vicino all'aeroporto internazionale di Buenos Aires, il governo argentino mette sul piatto 600 milioni di peso, sono circa 115 milioni di euro all'anno, passiamo da un contratto di 20 anni a un contratto di 10 anni, quindi non cambia molto in termini, esatto, di contratti assurdi se lo pensiamo con i nostri canoni. Il governo, perché interviene il governo? Perché sostanzialmente a far parte del consorzio privato che da 18 anni, Carlo, perché dal 94 trasmetteva, da 17 anni trasmetteva le partite del campionato argentino, c'è un gruppo editoriale molto importante, il Clarín, il giornale importante di Buenos Aires, ed è un gruppo editoriale oppositore al governo. Quindi sostanzialmente il governo, mettendo questi soldi, che è circa il doppio di quanto pagano resti privati, che pagano circa più del doppio, pagano oggi 260 milioni, il governo mette 600 milioni, il governo si sbarazza di un concorrente molto molto forte e gestisce il calcio, diventa socio della Federcalcio, gestirà le partite, le farà vedere gratuitamente agli argentini, ma gli argentini si chiedono quanto è gratuito un intervento di questo tipo, un governo, un paese con un'emergenza molto forte. Settimana scorsa anche il Papa Benedetto XVI ha detto che la povertà in Argentina è ancora a livelli scandalosi, è un paese in queste condizioni in cui il governo decide invece di investire, non so, su salute, educazione, di investire sul calcio. Molti hanno detto, anche molta gente per strada che ho sentito in questi giorni, hanno ricordato un'espressione, panem e circense, cioè dare felicità e dare calcio, però a che costo? Oppio dei popoli, la statalizzazione del calcio, almeno dal punto di vista televisivo, possiamo dire in Argentina, sì, qualcosa che non ha riscontri, credo, in alcun altro paese civile al mondo. E poi notano in molti, e tu scrivi, non risolve i problemi di fondo del calcio argentino, no? Assolutamente. Esattamente, il problema di fondo è quello che il calcio argentino è un grande buco, è sostanzialmente come un pozzo senza fondo dove arrivano soldi, certo quest'anno il ricavato per la vendita dei giocatori è stato minore perché i giocatori si vendono a meno, un caso emblematico Palacio che fino a 3 anni fa era dato a 20 milioni la quotazione e il Genoa se l'è portato via per un quarto di questa cifra, però i soldi entrano, dove vanno a finire? Vanno a finire in cattiva amministrazione, in corruzione, chiamiamolo semplicemente così perché questa è la realtà, in trasferimenti a giocatori che molto spesso non giovano alla squadra, questo è il caso di Javier Pastore che è stato venduto al Palermo, però il ricavato non è dato all'Huracán, la squadra che l'ha fatto praticamente esplodere perché l'Huracán non era proprietario del cartellino del giocatore e quindi nonostante il giocatore sia stato sia cresciuto e maturato ed esploso con questa squadra, la squadra non ha ricevuto praticamente nulla, insomma questo sistema completamente corrotto non cambia, anzi l'alluvione dei soldi che arriva dallo Stato fa sì che solo che ci sia un altro socio di riferimento, un altro alleato, forse un altro padrone della baracca del sistema, ma le cattive abitudini del calcio argentino non credo che si risolvano con questa soluzione. Grazie Emiliano, a presto. Grazie a te. Si parte tra una settimana e ovviamente torneremo a collegarci con l'Argentina e con Emiliano Guanella tra una settimana, 21 agosto, con una di ritardo sull'inizio programmato. Parte anche il campionato argentino su questa strada che non è esattamente la migliore immaginabile possibile. Allora, domani cominciano i mondiali di atletica a Berlino. Come dicevo prima, l'evento principe di questo spicchio d'estate. Giorgio Rondelli racconterà, commenterà questi mondiali di Berlino per Eurosport e anche per Radio 24. Attualmente l'ho tenuto qui, deve prendere un aereo, però il tempo di una mezz'oretta per parlare di questi mondiali ce l'abbiamo. Ciao Giorgio, grazie. Ciao a te Carlo e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, quelli che dormono con la bandiera, col tricolore vicino al letto magari saranno un po' disinteressati se non sono dei grandi sportivi. Però questi mondiali di atletica, che per noi sono, sì, ma poi ne parliamo con calma, sono grosso modo negli sport di fatica, di marcia, e saranno mondiali scintillanti, a cominciare dal secondo giorno, c'è la finale dei 100 metri. Beh sì, per noi saranno mondiali, detto bene, di marcia, di grande fatica per la squadra italiana, ma poi ne approfondiremo. Certamente partono con uno degli eventi planetari che sono i 100 metri, che è un po' la gara che poi incorona il bipede più veloce al mondo, cioè atleti che parliamo di questo Usain Bolt in particolare, che nelle fasi lanciate della corsa riescono ad andare oltre a 43-44 km orari, quindi poi una sfida perché non è, sì, è lui è il favorito principale di questa gara, ma c'è anche un Tyson Gay che è molto cresciuto, campione mondiale 100-200 a Osaka, ha cambiato allenatore, ha preso quel John Drummond che era un buon velocista qualche anno fa prima di ritirarsi, ha messo su più forza, corre meglio e quindi al miglior tempo dell'anno, 9,77. Al miglior tempo dell'anno, ancorché poi Usain Bolt abbia corso pochi centesimi peggio di lui, ma in situazioni climatiche peggiori, comunque una grande sfida, perché se no questi eventi vivono sulle grandi sfide. Beh, e quella dei 100 metri è come quella fra due pesi massimi che si vogliono buttare giù dal ring, quindi elettricità pura. Tra l'altro Bolt ieri si è autocandidato, li vinco io, ma non pensateci neanche, questi 100 metri sono roba mia, non ci pensi Powell, il grande perdente che doveva stare a casa di questa stucchevole diatriba tra, è una faida interna alla federazione giamaicana, la Giamaica voleva escludere Powell e altri grandi atleti per questioni interne, la IAAF si è fatta una grande risata e ha detto non ci pensate neppure di rovinare, di mandare un'ombra su questi mondiali, quindi ci saranno tutti i migliori. Sicuramente vorrebbe dire che se la IAAF avesse ceduto vorrebbe dire avallare qualsiasi lotta interna, certo, qualsiasi federazione. Lì in pratica c'è una grande battaglia fra Glenn Mills, che allena Usain Bolt ed è anche il tecnico federale, e Stephen Francis, che invece allena tutto l'altro gruppo che poteva essere tagliato fuori. Il fatto che si allenassero a Lignano Sabbiadoro a Norimberga è ridicolo, perché da anni si allenano a Lignano, quindi, certo, e se sono sempre andati andati bene, non si vedeva il perché. No, ma all'aria di essere un dispetto, sì, no? Li hanno convocati a Norimberga, questi hanno detto no, a Lignano stiamo rifinendo la preparazione, abbiamo tutto quello che ci serve, non veniamo lì, e quindi c'è stato questo tentativo di estromissione. Bene così, perché comunque Asafa Powell, al di là che è un grande perdente finora nelle grandi manifestazioni, è comunque un grande atleta e può completare un po' di ideale. Certamente se Usain Bolt va con la paura di perdere, cioè capisce che può rischiare qualcosa e va lì concentrato e al 100%, credo che sia sicuramente decisamente il favorito in tutte e due le gare, con a rischio i primati del mondo in tutte e due le gare, sempre che appunto i primati del mondo vengano quando ci sono condizioni particolari. Se ci saranno condizioni particolari, e Gay è l'avversario che secondo te può batterlo? Ma può batterlo solo se azzecca una grande partenza, i primi 30-40 metri, poi nel lanciato è forte pure lui, non come Bolt. Allora se l'altro nella fase di rimonta gli si incrina qualche cosa, nel senso di tranquillità, rompe un po' la meccanica dell'azione, potrebbe, sui 200 diventa più difficile questo discorso. Per la velocità non c'è discussione su una Giamaica ancora regina come era stata a Pechino? Nel complesso, in linea di massima sì, per quello che si è visto, e poi soprattutto nelle staffette. Certamente la Giamaica da Pechino 2008 è uscita come grande, era sempre stata, però un po' a macchia di leopardo, certo. Invece qui è dominio per ora con gli Stati Uniti così a rincorrere faticosamente. Sul fronte femminile, la regina della velocità chi sarà? Potrebbe essere la Williams, la Campbell, però vediamo anche un po' le americane se riescono un pochettino a reagire, insomma. Però sulla carta dovrebbero essere loro, le giamaicane potrebbero fare veramente poker 100 200 100 e 200. Poi dopo nelle staffette, sono sempre legate a un filo, perché quando si viaggia sui 40 all'ora il bastoncino balla. E anche perché balla poi parecchio. Però abbiamo visto che i giamaicani questi infortuni sul lavoro sono più tipici delle squadre americane, vero, uomini e donne, che non dei giamaicani, che vanno un pochino più tranquilli. Vero. Senti Giorgio Rondelli, altri grandi personaggi di questo mondiale: Bolt, si sa, le regine della velocità, e poi chi? Isinbayeva, Vlasic, allora, donne che volano. Ma Isinbayeva bisognerebbe aprire tutto un lungo libro. Lei, cioè, 3 anni fa ha cambiato allenatore, ha lasciato Trofimenko per Petrov, l'ex allenatore di Bubka. Qualcuno dice una scelta perché voleva andare più in alto. Adesso io come faccio? Io se mi metto nei panni della Isinbayeva, dopo 25 record del mondo, voglio andare più in alto. Voglio andare via dal mio allenatore. In realtà lì è una storia di una guerra di guerra di potere, di cui l'artefice è il signor Sergei Bubka, ex allievo di Petro, che l'ha dirottata, è riuscito con una manovra a dirottare la Isinbayeva, a farle cambiare allenatore. Per 2 anni la Isinbayeva non è salita, è salita l'anno scorso. E quest'anno sembrava poter fare bene, in realtà mi è sembrata a me un po' imborghesito, un po' sovrappeso, e anche un po' un problema a un ginocchio, quindi ha sempre 2 marce in più, ma qui si presenta con mezza marcia in più, per cui deve stare attento alla Rogowska e alle altre polacche un po' forti. Mi è capitato di dire o scrivere: scopriremo in questi mondiali se dietro quegli occhi blu meravigliosi c'è ancora la fame della tigre siberiana, quella fame, quel carattere, la voglia di vincere, oppure se in effetti altri pensieri, altre voglie di fare la mamma, di mettersi i tacchi, che ne so. Lo capiremo in questi mondiali, perché tu hai ragione, sembra un po' imborghesino. No, e lei è anche una grossa incantatrice di serpenti, voglio dire, è bravissima. Io ti dico, una volta proprio personalmente, meeting di Bruxelles, 40.000 persone, vengono presentati gli atleti, lei con una spider scoperta si mette a ballare Simply the Best con tutto il pubblico impazzito, ma ballava alla grande, per cui lei sa anche essere un grande personaggio, lo è per risultati, ma anche proprio per questa capacità che ha, che sicuramente quando smetterà di fare atletica saprà gestire bene, credo. Altre donne che volano, salto in alto femminile, c'è la nostra Antonietta Di Martino, ma lì credo che il duello sia tra Croazia e Germania, esatto, no? C'è questa prussiana della Germania dell'Est, della Turingia, Ariane Friedrich, che proprio perché gareggia in casa, potrebbe avere quella cattiveria in più. E poi c'è questa Blanka Vlasic, questo fenicottero di 1,93, però grande perdente anche lei, però proprio perché ha perso potrebbe avere la determinazione per fare il colpo. La nostra Di Martino è chiamata a un'impresa, è tornata a salire a 2 metri, cosa che non le è riuscita per tutto il 2008, ha cambiato allenatore, ha cambiato strategia di allenamento, ha abbandonato i pesi, però ha 3 o 4 avversari importanti, la Beitia, la Cicerova, quindi ci vuole un 2 metri fatto alla prima prova per salire sul podio, se no può fare anche una bella gara e finire quinto o sesto. Intanto cominciamo il discorso azzurro. Insomma, nella velocità non abbiamo grandi carte da spendere, sia tra gli uomini che tra le donne. C'è Libania Grenot che a settimo tempo stagionale, se non ricordo male, insomma, è comunque donna da finale ed è il massimo che possiamo ambire nelle discipline veloci. Beh, donna da finale, se si migliorasse nell'occasione specifica, cioè scendesse sotto i 50 secondi, potrebbe essere avvicinarsi in zona medaglia. Però anche l'anno scorso ha dimostrato di patire i turni, per cui sono d'accordo con la tua diagnosi, donna da finale, ma probabilmente non da medaglia. Resto beh, sicuramente la Kuzma sugli 800 metri è un'atleta molto solida, non ha un gran fisico e lì nel gara degli 800, dove più che i runner ci vogliono i racer, cioè quelli che combattono, così deve avere coraggio, deve correre in testa. Perché le keniane non sono più quelle dell'anno scorso, la Jepkoskei e la Gelimo, però sono uscite 2 atlete forti, una sudafricana, dico adesso mi scuserete ma non mi ricordo il nome, l'americana Vessi, che sono andate molto bene, quindi nuove avversarie. Però se lei sta bene è donna anche lei da finale, quindi e potrebbe anche fare il colpo, perché le gare degli 800 metri sono sempre un po' di terno all'otto, sono sempre strane, mentre quelle che sembravano essere qualche anno fa ormai le nostre stelle, Gibilisco arriva con grandi problemi, non arriva addirittura, ma ho l'impressione che sarò cattivo, però il treno per l'atletica ad alto livello per questo ragazzo sia passato tra mille problemi e magari qualche errore o diversi errori, non so, dimmelo tu. Beh, per Gibilisco anche lui, dopo la vittoria clamorosa, che è l'ultima nostra medaglia d'oro a Parigi 2003 e il bronzo ha preso veramente al volo l'anno dopo ad Atene, vari problemi, quella inchiesta sul contatti con il dottor Santuccioni, così che sicuramente l'ha mandato fuori squadra. Comunque i problemi sono questi, che fa fatica a saltare 5,70, è chiaro che se fai fatica a far saltare 5,70 al massimo puoi aspirare di qualificarti per la finale. Andrea ha un lavoro, è un discorso molto più articolato, cioè il grosso problema è che Berlino a parte, il ragazzo si deve operare il tendine d'Achille della gamba di stacco, per cui un'operazione molto a rischio, perché quando devi trasformare la velocità orizzontale in verticale al momento dello stacco, se non puoi applicare la forza esplosiva non vai più lungo, quindi o cambia il piede di stacco, e poi credo che sia anche doveroso dire che forse deve cambiare anche un po' gestione, perché non è possibile che un ragazzo che ha 24 anni da due anni si trascini così mezzi problemi. Adesso credo che parteciperà a un grande reality, e l'unica notizia certa di Suov dei prossimi mesi è questa. E se partecipa a un reality vuol dire che insomma... Beh, lui è un personaggio. Ho capito, Giorgio, però è un personaggio, però per essere personaggio diventi personaggio dopo che sei stato grande atleta. Esatto. Cioè Magnini è andato a fare reality da campione del mondo. No. Questo ragazzo è uno che ha carisma, uno molto simpatico, lo è sempre stato, eccetera, eccetera. Però onestamente dal punto di vista agonistico dell'atletica dei risultati non... Ecco, diciamo che se un rimprovero si può fare tra virgolette alla federazione o comunque tutto l'entourage, che 2 atleti come Gibilisco e Andrew Au c'è stato qualche cosa che non si è riusciti a incanalarli a fare un'atletica di alto livello nel tempo, cioè hanno fatto delle grandi cose e poi si sono un po' persi ad età ancora giovane, speriamo che possano riprendersi, ma temo che la tua diagnosi sia pessimistica. Sono pessimista, però insomma, non so se è pessimismo o realismo. Ci sono i dati per essere pessimista. Sempre qui vicino a me Giorgio Rondelli, che sarà anche la nostra voce ai mondiali di atletica di Berlino, ma soprattutto c'è collegato con noi, e lo ringrazio, il nostro CT Francesco Guagliati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Grazie dell'intervento. Allora, io e Giorgio Rondelli già siamo portati avanti col lavoro analizzando nel complesso questo mondiale per quanto riguarda le superstar. Adesso arriviamo alle nostre superstar, che sono, Giorgio, come dicevamo, quelli gli uomini della fatica, gli uomini e le donne della fatica. Sì, beh, in prima linea gli uomini e le donne della fatica, ma poi c'è ancora anche, può esserci ancora parecchio altro, soprattutto in termini di finalisti. Poi abbiamo parlato della Di Martino e poi di un atleta che, su cui Francesco crede molto, che è Elisa Kusma. Elisa Kusma può fare molto bene, ma come appunto può fare molto bene la Di Martino e può fare molto bene, ma credo che forse... Sentiamo cosa dice il CT. Con che speranze vola a Berlino? Beh, come giustamente ha detto Giorgio, la strada della fatica, cominciando dalla marcia, è quella che ci dà un pochino più di speranze, quindi sicuramente sia la marcia maschile che quella femminile, ricordiamo Brugnetti, Schwarzer, Rigaudo, senza dimenticare Rubino. E poi continuando quello appunto che diceva Giorgio, due ragazze che secondo me si può puntare, che sono Antonietta Di Martino, che sta bene, l'ha dimostrato al Golden Gala e ha recuperato appieno tutto quello che aveva da recuperare, è molto molto volitiva. E accanto a lei anche Elisa Kusma, che io vedo in crescita, vedo una ragazza quadrata, con una grande determinazione e grande possibilità di acchiappare qualche risultato in questo mondiale. Poi non dimentichiamo naturalmente molti, molti altri, sono Chiara Rosa, le due martelliste, la Saris e la Claretti, i nostri tre triplisti, sono tre, uno giovanissimo, Donato che esce da qualche infortunio ma che è campione europeo indoor, per poi non dimenticare Vizzoni e tutti gli altri che sicuramente noi, come ben sapete, abbiamo portato una squadra molto competitiva, molto ridotta ma molto competitiva, al di là di quelle che potranno essere le medaglie, ma sicuramente con una grande determinazione e un grande punto di riferimento su questi mondiali. Francesco, due considerazioni: c'è la 4% ed è una cosa che sembra competitiva, anche abbastanza unita tra di loro, a differenza degli anni scorsi, e che è la tua soddisfazione, anche perché il settore l'hai seguito tu direttamente. E il tuo crucio, che me l'hai rivelato nei giorni scorsi, è l'infortunio di Licciardello, che ci priva della 4x4. Certo, la 4% maschile, noi siamo usciti da un campionato italiano a Milano con due titolari che incerti, uno sicuramente completamente recuperato, l'altro Cerutti sembra recuperato anche lui, comunque li vedremo nella gara individuale e da quello peseremo quanto potrà fare la staffetta. Poi è chiaro che se tutti e quattro stanno bene, qualche risultatino alla staffetta ce lo aspettiamo. La 4x4 maschile, noi ne abbiamo lasciata una ai campionati europei indoor, che ci ha dato una grandissima soddisfazione. Qui di quella 4x4 ci sarà solo Galvan, purtroppo. E purtroppo anche perché in questa stagione, soprattutto con i giovani, sono cresciute due o tre realtà nuove che ci possono sicuramente far ben pensare per il futuro. E chiaramente, se non sarà quest'anno, purtroppo la 4x4 non c'è, ci contiamo per i campionati europei dell'anno prossimo. Senti, una battuta nel calcio dice: non si giudica un giocatore se c'entra o meno un calcio di rigore. E da cosa si può giudicare un CT, o comunque tu ti sentiresti contento? Una medaglia d'oro sicura, che non vinciamo dal 2003, due o tre medaglie di metallo meno pregiato, o da un congruo numero di finalisti, che sarebbe anche in linea poi con le scelte che io ritengo corrette e molto severe che hai fatto? Beh, guarda, io ho sempre detto fino all'inizio che a me piacerebbe far crescere l'atletica, crescere dal basso, dai giovani, e farla così ridiventare una realtà in cui, al di là delle medaglie, e sicuramente noi abbiamo dei titolati per quanto riguarda questa rincorsa ai metalli più o meno preziosi, a me interessa moltissimo la crescita di una squadra giovane, di nuove realtà da far crescere. E purtroppo qui manca Andrew Au, che sicuramente è una nostra realtà, e comunque questa grande crescita della squadra io la vedo la vedo per il futuro, per Londra e anche per dopo Londra. Ci sono un sacco di giovani, siamo usciti giusto dal fine settimana in cui la squadra juniores ha battuto Francia, ha battuto la Spagna, ha battuto la Grecia, ha fatto una manifestazione di grandissimo valore. Ci hanno tutti applaudito per questa grande manifestazione. Credo che i nostri giovani, insomma, nel futuro potranno dire la loro. Sarà subito Brugnetti domani ed è una delle più importanti carte che abbiamo da giocarci sul tappeto di Berlino. Come sta? Ma Brugnetti sta bene ed è anche molto carico. Credo che saprà dare il meglio di sé in questa situazione. E accanto a lui sicuramente ci saranno anche gli altri che le faranno da spalla, ma non solo. E Schwarzer? Schwarzer sta bene. Io l'ho visto a Milano l'ultima volta ai campionati italiani e mi ha sorriso, e questo sorriso per me vuol dire molto. Due giorni fa l'ho sentito, questa è una cosa così che ti rivelo, l'ho sentito in uno speciale che abbiamo fatto su Sport Italia, l'ho sentito uno Schwarzer piuttosto coperto. Di solito sai che lui è un po' rodomonte, vado, spacco, non temo nessuno. Stavolta quasi ha messo le mani avanti, dice anche una medaglia vorrebbe dire continuità, insomma, forse sente anche un po' il peso di doversi confermare in un'annata dove è stato anche personaggio, non c'è niente di male a dirlo, anche fuori dalla strada. Ma io penso che lui sia un grande campione, è chiaro che da medaglia olimpica da primo soffre sicuramente, gli altri che cercheranno in tutti i modi, hanno lui come punto di riferimento, quindi cercheranno in tutti i modi di stare dietro a lui. Io credo che stare dietro a lui sia molto difficile, però. Lui ha detto che al 42esimo chilometro vincerà chi avrà più fame, speriamo che sia stato a digiuno. se qualcuno lo ha visto mangiare, sa che Schwarzer ha molta fame. Grazie Francesco. Grazie Francesco, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Davvero Francesco Guagliati, il nostro CT dell'atletica. E in effetti Giorgio, insomma, è un problema che nel dopo Olimpiade tutti i personaggi vincitori si portano dietro. Ma è un problema che ha dovuto gestire la stessa Federica Pellegrini e l'ha fatto egregiamente. Ma io ho vissuto personalmente queste situazioni con atleti come Cova e Panetta, sì. E credo che se al di là della bravura tecnica mi rendevo conto dei pericoli che c'erano e quindi cercavo sempre di spostare in avanti, l'obiettivo era sempre la gara successiva, l'anno dopo, la difesa di non esporli quando non erano al 100%, perché vincere è difficilissimo, però ci si può riuscire. Gestire la vittoria. Però gestire la vittoria, ritrovare la concentrazione, scendere in campo con una carica maggiore, cioè ti deve dare una carica maggiore, non maggiori preoccupazioni, perché se no dopo, se poi non ti riconfermi, dopo come dici, come prima abbiamo parlato di per altri problemi, dopo non puoi diventare un campionissimo. Un campionissimo è quello che c'è sempre come concentrazione, come atteggiamento psicologico, come voglia di fatica e come voglia di odiare sempre gli avversari. Sennò l'allenatore deve essere bravo, questo non gli deve essere simpatico, deve continuare a fargli fare allenarlo di più e fargli odiare gli avversari e dargli delle indicazioni, specialmente nelle gare di mezzo fondo, tattiche anche per come ho letto un'intervista recente di Schwarzer che diceva, insomma, devi amare la fatica per fare questo sport. Esatto. Io la amo, mi nutro di fatica. Esatto. E i giorni peggiori sono quelli dell'immediata vigilia, perché non posso farne, devo riposarmi e mi sento un leone in gabbia. La gabbia sta per aprire e sarà, io credo, carriera solo agli inizi, però la gara più difficile proprio per questi motivi, no? per lui, perché deve confermarsi, perché viene da un anno strano. Sì, la fatica è un compagno di viaggio scomodo per i grandi campioni e soprattutto può essere un tarlo positivo o negativo quando una gara, come nel caso di Svezia, dura 3 ore e mezza. Senti, Elisa Rigaudo cosa ci può regalare? Elisa Rigaudo, intanto lei non è sotto gli occhi, sotto i riflettori. Bravo, esatto. come Schwarzer. Si è allenata molto bene, tranquilla, credo che sia auspicabile, ma anche sia pronosticabile che possa lottare davvero per arrivare in zona medaglia. Cioè dal quinto al terzo posto ci sta assolutamente. Dal quinto al terzo posto ci sta secondo le tue personalissime previsioni. Sì, io ho fatto una serie di previsioni dando 5 stelle a chi è medaglia sicura. Schwarzer, se è presente a se stesso, può essere medaglia davvero. E poi a 4 per tutta una serie di Martino, Brugnetti, Rigaudo. che possono anche loro lottare per l'alto livello. Poi ci sono tre stelle per gli finalisti. Ecco, se abbiamo tanti finalisti vuol dire che l'atletica italiana, certo, è viva, è complessivamente in crescita. Poi però serve la copertina, serve la vetrina, la vetrina è la medaglia, fatalmente. Sì, perché se andiamo a vedere anche i mondiali di nuoto, sì, Pellegrini e cose, però il settore maschile è disintegrato, la pallanuoto è disintegrata. Mm-hmm. E però queste grandi stelle sono quelle che ti illuminano tutto il firmamento. No, ma poi anche Castagnetti ha detto, insomma, è importante anche raggiungere la finale, perché sei negli, certo, 8 migliori del mondo. Però è chiaro che se raggiungi la finale e arrivi ottavo, la gente se ne è dimenticata. Cioè, alla fine, che fanno cassette, che fanno innamorare la gente, sì, piaccio o no, soprattutto in Italia. Però sai, tu, Carlo, come CT, avendo 10-12 finalisti, puoi trovare le due medaglie del prossimo mondiale. Puoi lavorarci sopra per costruire due medaglie per il prossimo mondiale. Senti, Giorgio, voglio chiederti ancora questo, che c'entra relativamente, credo, con i mondiali di atletica. Però abbiamo vissuto una settimana molto particolare, no? Il caso di Schumacher, il caso di Stoner. Vediamo sportivi sempre più pericolosamente vicini al limite, o forse oltre il limite delle prestazioni psicofisiche, non trovi? Questo sì, però d'altronde è anche dove può incidere davvero tutto lo staff e tutte le persone che è intorno. Abbiamo visto poi che la Pellegrini, con quello che ha passato, poi lo psicologo. Io penso che il miglior psicologo, che per Schumacher può essere un discorso diverso, sia sempre in questi casi di sport individuali l'allenatore. Ecco, l'allenatore, se è bravo a capire le situazioni, gli stati d'animo, i pericoli a cui va incontro, può cercare di intervenire sistematicamente per correggere atteggiamenti agonistici e anche della vita di tutti i giorni, che possono sicuramente danneggiarti per andare ad alto livello. Certo che c'è tanto il ritorno d'immagine adesso e tanti media, tante cose, che rispetto a 10-15 anni fa le tensioni per chi ha i vertici sono raddoppiate. Sono raddoppiate, senz'altro. Giorgio, per chiudere, io muoio dalla voglia, dalla curiosità, finale dei 100 metri, torniamoci sopra, abbiamo aperto con questo, torniamo su questa. Tu immagini una finale su quella pista blu da record del mondo? Sì, io la immagino, perché di fronte a questi grandi palcoscenici i grandi... Domenica saremo qui dalle 18 alle 19, orario estivo abituale, e naturalmente Giorgio Rondelli da Berlino ci racconterà un sacco di cose. Tanto grazie, buon viaggio. Grazie a voi. Grazie davvero a Giorgio Rondelli, grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Appuntamento con A Tempo di Sport domenica alle 18. Buona giornata.